Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. A girare, palla che resta lì, chiuse Evra, ancora la Francia però, palla in mezzo con l'intervento di Rizzoli, calcio di rigore, fallo di mano, calcio di rigore, la rincorsa, parte Chris Baller ed è Francia in vantaggio. Matuidi che si propone, Pogba è costretto a uscire dal rigore, poi magia di Pogba in mezzo per Giroud, anticipato Chris Baller, il raddoppio della Francia. Game over! La Francia in finale a Saint-Denis, batte la Germania per 2-0 con la doppietta di Griezmann. Francia-Portogallo, e noi, ve lo dico subito, ve la commenteremo, racconteremo in diretta, quindi vi do subito questo appuntamento insieme a Giovanni Capuano, domenica sera dalle 21, ovviamente ci sarà anche Pierluigi Pardo collegato con noi. Preparatevi, perché saremo qui domenica sera per questa finale degli europei. Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, che sono uno collegato e l'altro qui con me. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Come va? Benissimo, ho tre buste per voi. Vai. Busta numero uno, che è quella della finale Francia-Portogallo. Ultima pagina di questo romanzo europeo. La Francia che fa, dicono alcuni, un po' l'Italia rintanandosi, non è furibonda come l'ormai ex squadra di Conte, ma un mare di talento in più. Questa la busta numero uno. Questa Francia è matura per vincere l'Europeo? Pardo. Sì, la Francia è la grande favorita dell'Europeo a questo punto. Secondo me la finale è 70-30. 70-30? Sì, 65-35, una roba così. Però insomma... Il mio cuore è mezzo portoghese, quindi li perderò anche sotto. 65-35, no, non andiamo oltre il 55-45. Attenzione, perché 65-35 è la stessa percentuale di Pardo per Italia-Spagna, eh? Me lo ricordo bene. Per la Spagna o per l'Italia, l'ha detto. Italia 35. Potrei anche pensare a una scaramanzia o a qualcosa di inconscio, quasi sottinteso. No. Allora, vi voglio far sentire questa cosa. Però posso dire una cosa. Piace pensare che un pezzo della semifinale alla Germania l'abbiamo fatto perdere noi. Bravo, sì, li abbiamo sfiancati. Un po' di godimento oggi c'è. Loro li hanno matati, no? I cuginetti d'Oltralpe. Sì, se questo è servito a far vincere i francesi, non so, dibattito aperto. io fra Francia e Germania, non lo so, forse tipo Germania addirittura. Detto questo, ma per carità, niente, sono popoli meravigliosi, nessuno, però sono rivalità. No, ma adesso tifiamo Portogallo, No, voi, io tifo Francia. Portogallo è simpatico. Io tifo Francia, ragazzi. Domenica sera derby. Cosa paghereste per vedere Quaresma vincere l'Europa? Niente, assolutamente niente. Dai, io... 50 euro li darei. Ma sì, dai. Ma Quaresma, è il Trivela, ma dai. No, lascia stare. Per Quaresma, per il Portogallo. Sì, Portugal, Azarmash, è la patria lui. Sono in taxi con un tassista che mi guarda preoccupato. Ti guarda lei preoccupato. Chi ti farà Francia e Portogallo? Chi ti farà? Fra Francia e Portogallo? Bene, non chi? Rispondo. Non risponde. Non ci sono tempi radiofonici, però ve lo faccio dire. Intanto vi faccio sentire una cosa carina con Pogba ed Evra che si sono autointervistati. Questo è Evra che intervista molto Pogba. Bella, molto bella, sì. Siamo con Uncle Pat? Sì? Ringraziamo l'intervista, Paolo. No, dico, allora, cosa ne pensi della partita oggi? Scusate, fanno loro. Prima io sono veramente orgoglioso di tutti i miei compagni, di giocare con te. Dopo mi paghi, dopo l'intervista. Però, no, alla fine, no, sono molto contento. E come ho detto, ma non è la finalità è domenica. E questo è Pogba che intervista Evra, invece. Paul, no, ma veramente dopo una vittoria così contro la Germania, che è campiona del mondo, che aveva eliminato la nostra Italia, che noi veramente eravamo veramente tristi per tutti i nostri compagni, adesso ci hanno chiesto di vincere contro la Germania, l'avete fatto. Cosa vuoi dire? Io volevo solo dire che penso che ho ricevuto l'energia di tutta l'Italia e tutte le persone che mi hanno detto dopo la partita: dai, andate a vincere contro questa squadra. E ho ricevuto questa energia, abbiamo fatto bene oggi, però non è finito, penso che dopo dobbiamo vincere. È bello di vincere contro la Germania, però non è finito, dobbiamo vincere contro il Portogallo, la finale, e questo è importante. Esatto, perché anche Paul avevi comunque la pressione di tornare presto a Vinovo per correre. Cioè, questo era importante, vincere oggi per avere una settimana in più. Questo è un piccolo messaggio a mister Allegri, a preparatori, una settimana in più. Senza dire niente. Noi abbiamo giocato comunque con questa motivazione. Va bene? Allora, rapidamente, mentre i nostri ascoltatori si schierano già via messaggio per il Portogallo, perché è Portogallo, perché io tifo sempre avversario della Francia, simpatici come un dito in un occhio, perché godere per una vittoria della Francia è quasi da ricovero, eccetera, eccetera, eccetera. Io tifo Francia, poi fate voi, sono certamente da ricovero. Rapidamente, poi approfondiamo. Le buste numero 2 e 3 erano... Dicono torniamo a Vinovo una settimana dopo, ma siamo sicuri che Pogba tornerà a Vinovo? Perché altro tema, c'è l'Inghilterra pronta a coprire d'oro la signora, si legge di offerte pronte da 120 dello United per Pogba e di 60 del City per Bonucci. Li vendereste? Ne parliamo dopo. Busto numero 3, il pacco, la quaglia, come lo chiami a Roma? Il tradimento, il pacco, la sola di Bielsa, la sola, il pacco, la quaglia, il tradimento di Bielsa alla Lazio, non viene più. Inzaghi per il momento va in panchina a guidare la preparazione, dicono, però pare anche che legittimamente Simone Inzaghi voglia l'incarico, il mandato pieno, non vado lì a preparare la squadra e poi la diamo a qualcun altro. Questi tre argomenti, votate 800 24 00 24, traffico, tutti convocati. Allora, tre argomenti lanciati. Giovanni Capuano qui con me, Pierluigi Pardo collegato, Raonic e Federer in campo per la prima semifinale di Wimbledon. Beh, qui ci sono poche discussioni sul soggetto per cui si fa il tifo, no? Mi sembra Roger, sua maestà Federer, a caccia della milionesima finale di Wimbledon dopo il match dell'altro giorno con Cilic. Siamo 2-1 per Raonic, ma siamo alle prime battute di questo match. Allora, Giambattista da Forlì, buongiorno. Sì, buongiorno. Di cosa vuole parlare? Busta 1, 2 o 3, finale. I ponti d'oro inglesi per Pogba e Bonucci o Bielsa che fa la sola? No, io due, Bonucci e Pogba, in quanto nella mia vita sono sempre stato Juventino, anche se ultimamente mi sono un po' disgustato dal calcio. Quindi sarebbe retorica dire che siete bravi, perché vi ascolto tutti i giorni. Grazie. Ve lo dicono tutti, però continuo anch'io. Ha sempre piacere. Semplicemente... Beh, ve lo meritato. Dica. Perché io che sono sempre in macchina vi ascolto volentieri. Niente, semplicemente il mio semplicissimo punto di vista, vedendo anche quello che fanno le grandi squadre europee, il Barcellona si sognerebbe mai di vendere Neymar, Suarez, anche se gli presentassero 300-400 milioni. Se la Juventus veramente vuole vincere questa benedetta Champions, non deve vendere ma comprare, anche se 180 milioni di euro possono fare una grossa gola. Questo è un po' il mio pensiero. Questo è il suo pensiero? Questo è il suo pensiero, il nostro. Adesso sentiamo quello di Pardo e Capuano, pure dico il mio. Sì, parto io? Ma no, 120 per Pogba, 60 per l'idea. Io sono dell'idea che tutti hanno un prezzo, mm-hmm, pure Messi ha un prezzo in questo, mm-hmm, momento. Quindi mm-hmm, il discorso di dire che i giocatori migliori non si vendono è un discorso giusto, perché ci sono società che sono costretti a vendere perché per ripianare i bilanci, per mettersi a posto, e quindi non fanno mai il salto di qualità. Quindi su questo ha ragione l'ascoltatore. Però insomma, se la storia del calcio, anche del calcio italiano, dice che se vendi bene poi puoi fare delle cose importanti. Insomma, il famoso esempio di Zidane, esempio di Ibrahimovic dell'Inter, l'Inter ha vinto la Champions l'anno in cui ha venduto Ibrahimovic, la Juve ha venduto Zidane, benissimo, e ha continuato a vendere. Come tutte le cose della vita, non conta, cioè non c'è una regola assoluta, conta come compri e come vendi. Sì. E se vendi molto bene e poi quei soldi li investi, puoi addirittura rafforzarti. Io sono addirittura dell'idea che anche il Napoli, se vende molto bene Higuain. Però Pier, è anche vero che tu fai riferimento a Buffon, Nedved e Thuram presi vendendo Zidane, però quello era un periodo dove i top player poi volevano restare in Italia o venire in Italia. Oggi, secondo me, se tu vendi il difensore più forte al mondo che c'è in questo momento, che è Bonucci, e Pogba, che è Pogba, io non so se con quei 180 milioni di euro prendi quattro giocatori di primo livello. Ho l'impressione due, che non ce la fai. Non ce la fai. Però, banalmente, vendere Bonucci a 60 e comprare Benatia a 20, insomma, è affare. Poi si può discutere sul fatto che Bonucci, anche per un discorso l'avevo fatto però, mille Pier, volte. Benatia era una riserva del Bayern Monaco quest'anno. Sì, era un signor giocatore. Ci sarà una ragione, magari tattica, perché non si sposava bene col gioco di Guardiola, però non è certamente nel suo miglior momento Benatia, altrimenti no, Bayern non farebbe il tutto per Giovanni, però può tornare può il giocatore, che era. Poi ci sono altre due considerazioni. Cioè, la prima, io sono d'accordo, cioè di fronte a certe cifre arrivi a un limite per cui dire di no. Io sono tutt'altro che moralista, ogni cosa ha un prezzo, lavoratori fungibili, non mi scandalizzo assolutamente di fronte alle quotazioni e agli stipendi dei giocatori. La seconda questione è quella degli stipendi, perché lo United si dice darebbe a Pogba 12 milioni l'anno. Cioè, alla Juventus ne prende, cosa ne prende? 4-5? Non ricordo. Ne prende 4,5. 4,5, benissimo. Bonucci ne prende? Bonucci ne prende poco meno di 4, ha fatto il rinnovo l'anno scorso. E al City gliene darebbero 8. Ma di fatti, secondo me è Bonucci oggi quello più attaccabile. E il fatto che il suo agente sia andato a Manchester, evidentemente informando la Juventus, ad ascoltare quello che ha da dire il Manchester City, secondo me è la spia che la Juve vuole tenerlo, però si rende anche conto che forse, se davvero le cifre sono quelle che girano, i 60 milioni, il raddoppio dello stipendio, come fai a fronteggiare? Bisogna fare una riflessione. Io ho l'impressione che sia questa oggi la chiave di lettura, oggi 8 luglio, poi domani magari cambia tutto. Quello che contesto è l'idea che se vendi Pogba non puoi più giocare a pallone, non puoi più vincere. Poi è ovvio che se vendi Pogba, vendi Bonucci, quei soldi te li tieni e non li reinvesti. È chiaro che è evidente. Perché tu pensa all'esempio del Napoli, partendo anche dal presupposto che difficilmente Higuain possa fare l'anno prossimo 36 gol, perché insomma va bene che è un mostro, però è un fatto quasi statistico, no? Tu potresti anche pensare di venderlo. Poi ovviamente bisogna capire chi compri, quindi è ovvio però io credo che una società lungimirante, e la Juventus lo è, come credo anche il Napoli, abbia già un'idea, no? Insomma, non si muoverà all'ultimo minuto, non è che incassa e poi dice adesso che faccio. Però ecco, cioè, a me quello che non convince è il dogma, che capisco che è un discorso impopolare, perché poi è ovvio che i juventini vogliono tenere Pogba e Bonucci, i napoletani vogliono tenere Higuain, i romanisti vogliono tenere Piani. Cioè, io contesto, dico che è chiaro che da un punto di vista di, si può fare un discorso popolare, dici questo non si vende, questo è incredibile, però poi in realtà se lo vendi molto bene e sei molto bravo a comprare, potrebbe pure andarti meglio. Lo facciamo uno scenario e chiediamo agli amici a casa se gli piace. Allora, la Juve vende Pogba, Bonucci per il momento è insostituibile, lasciamolo a Torino. Va a Parigi, prende Cavani dando al Paris Saint-Germain la forza di andarsi a prendere Higuain, quindi il triangolo è questo, e poi si prende anche André Gomes e io non so, magari la Juve è più forte così, non lo so. André Gomes non mi fa impazzire, cioè, ho qualche dubbio, però è chiaro che è un percorso più impervio e quindi più rischioso, questo non c'è dubbio, però in assoluto la storia del calcio è piena di vicende, di episodi nei quali aver venduto molto bene i giocatori e poi alla fine diventava una chiave per il successo. Sì, ma è successo molte volte, no? Con grandi superstar che sono... Evra è simpaticissimo, Sì. Io adesso, prima abbiamo sentito Francia Porta, Evra, non solo questa cosa non lo diciamo mai, è uno dei giocatori più simpatici che ci sono in giro per il mondo. Ma anche uno dei più carismatici. Monaco, Anche dei più carismatici, perché in questa stagione le voci dello spogliatoio sono state Buffon, Bonucci ed Evra, sono stati questi tre i grilli parlanti della Juventus. Gli ascoltatori si dividono, c'è chi dice Pogba subito, Bonucci mai, c'è chi dice Pogba non l'anno prossimo, Bonucci male in cuore per la persona, ma sì, eccetera eccetera. C'è anche chi dice che siamo così innamorati da definire Bonucci, che è responsabile di entrambi i gol subiti dall'Italia agli europei, il miglior difensore del mondo, però magari ha anche fatto qualche errore. Il tema è che oggi tanti cercano un regista che fa partire il gioco dalla difesa, sì, e Bonucci è il numero uno. Sì, sì, sì. Bonucci è il numero uno. Anche la Francia l'ha fatto ieri sera, no? Con Titi che non doveva giocare, aveva bisogno di piedi buoni per far ripartire l'azione. Questo mi sembra un tema tattico interessante di questi europei che potremmo anche approfondire. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. A questo punto Capuano, presidente della Juve, in pieno... Ah, pensavo della Repubblica. Sposo in pieno la sua tesi, nel senso che Bonucci attualmente, numeri alla mano, è insostituibile, anche perché, come hai detto tu giustamente, fa parte di quella schiera di senatori e prossimi, molto probabilmente, salvo l'immortalità di Buffon, alla fascia di capitano della Juve. Quindi c'è un futuro su Bonucci molto lungo. Quasi 29, ragazzi, Bonucci. Sì, quasi, chiaro, 29, però, 60 per un giocatore per un giocatore 29enne. Però è molto più sacrificabile Pogba a quelle cifre. Forse ti dà quel capitale per poterlo sostituire, anche se è molto più giovane. Poi dispiacerebbe anche per Pjanic, cazzo, che arriva per vincere e poi gli smonta la squadra. Però ripeto, non è che gliela smontano e poi la lasciano smontata, gliela smontano e poi la ricostruiscono. Esatto. Danilo, dica. Io volevo intervenire riguardo alla cessione di Pogba e Bonucci. Secondo me queste cifre non sono vere, perché non esiste una società che a 120 milioni non c'era un giocatore, addirittura un giocatore pagato zero come Pogba. Sì, sì, 120 di pura plusvalenza. No, le cifre che circolano sono queste, poi se sono vere o no lo scopriremo presto. Non esiste una società che a 120 non vende un giocatore, non lo so, ci si può ragionare sopra, in effetti sono tantissimi soldi, poi è chiaro che non so quale possa essere la quotazione di Neymar, non so quale possa essere la quotazione di Messi, eccetera. Ci sono dei giocatori che cui attaccare il cartellino del prezzo è estremamente difficile. Sentiamo anche Alessandro da Catania, così non lo facciamo attendere fino a dopo la borsa, e poi rispondiamo a tutti e continuiamo a discutere. Alessandro, dica. Allora, secondo me, buongiorno, ma Bonucci vanno venduti, perché ricordando le vicende di Zidane non partì subito. Ci furono un paio di anni, due o tre anni di trattative, e Zidane manifestava il desiderio di non voler stare più nella Juventus, e giocò veramente male. Ora, se Bonucci ha mandato il suo agente a Manchester e Pogba da tempo fa capire che vuole andare via, è meglio fare immediatamente cassa. Sì, no, è chiaro che se il giocatore va lì e dice non voglio più giocare qui, il discorso si chiude, perché interviene appunto la volontà del giocatore, e questa è la strada, se il giocatore vuole cambiare aria. Ballano anche molti soldi di ingaggio, ed è chiaro che la Juventus dovrà fare i conti anche con questo fattore. Ci fermiamo per la borsa, ma torniamo. Prima svolta della partita, ancora lunga però. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere. E ascoltate. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Si ricomincia. Tutti convocati. 7 minuti ho quasi perso il filo dei discorsi, ma comunque il ponte, la tratta Italia-Inghilterra caldissima. Stavamo parlando delle offerte che stanno per arrivare per Pogba e Bonucci alla Juventus. C'è Federer che in campo contro Raonic, 5-2 per Raonic nel primo set. Allora, Pardo, ci sei, vero? Sì. Adesso voglio farvi sentire una cosa, perché dicevo, la tratta Italia-Inghilterra è caldissima, la Premier l'anno prossimo sarà il paradiso dell'allenatore, anche, tra l'altro. Abbiamo un'ampia delegazione dei nostri, compreso il campione in carica, bravi ad allenare, sono bravissimi. Quanto all'inglese, da ieri il primo Mazzarri inglese è diventato virale, questo. I choose this club because I like as is run and is close to my football idea. I don't like talking too much about what we will do. Action speak louder. And the pen is on the table and the cap is under the table. Allora, io gli chiedo un voto, lo chiedo innanzitutto al più popolare dei quotisti SNAI, Adam Grapes. Ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, devo dire pieno rispetto per Mazzarri, perché so come è difficile imparare una lingua straniera. Ma secondo me la mia quota è 1,30, che c'era qualcuno dietro le telecamere con le parole scritte, secondo me. il gobbo. C'era il gobbo. Cosa dici, Pierluigi? He has a bit of a Cockney accent, ha un po' di che parla un po' Cockney, per questo non l'abbiamo capito bene. Sì, un po' sì, certo, sì, infatti. Che vi devo dire? Non lo so, io forse devo dire, ci avrei pensato un attimo prima di pubblicare questa cosa. Però poi alla fine, tanto quello che conta sarà saperci fare sul campo, e Mazzarri secondo me ha tutti i presupposti per far molto bene, perché Mazzarri è uno molto bravo, e questo c'è poco da fare. Ecco, però forse come comunicazione gli avrei consigliato di... The pitch will speak. Rifalla. Facciamo un'altra. Ma non c'è solo Mazzarri, ragazzi. La migliore. Non c'è solo Mazzarri, c'è anche Conte. I want to play with my players. I like this. I want that my players feel me very close. And I suffer and I win with him. I had great coaches, no? Great coaches poi, in my con questa vocina celestiale di sottofondo, Adam Grapes, cosa dici di Conte? Questa voce mi viene in mente il classico, diciamo, Italian Stallion, che va a Londra a studiare e parla con quella voce così per affreare le signore londinesi. Erasmus, voce, insomma, Erasmus. Questa voce è molto, sì, questa voce è molto romantica ora, quell'altro lì. Ma torni un attimo a Watford, io c'ho una teoria. Perché secondo me c'è qualcuno nel reparto televisivo di Watford che ce l'ha veramente contro gli italiani, perché prima c'era Sanino. Sì. E se andate su YouTube trovate anche interviste con Beppe Sanino, anche siamo andati tutto, siamo andati. Eccolo qui. I very happy for the support. I'm very happy. Questo è Sannino, Adam. Siamo preparati. Sì, è lui. Però c'è anche, abbiamo anche Guidolin. Anche Capello. Dimmi. Adesso mi perdonerà il mister. Anche Capello, ricordo una volta disse Rune Yar durante una conferenza stampa, come se fosse plurale, perché finiva con la I. Però. Ma perché i Runei sono tanti, non tanti, ce n'è uno solo. Milioni di milioni i Runei. No, però insomma dai, torniamo al discorso di prima. Conta poi quello che fa in campo. Conte mi sembra meglio di Mazzarri. No, ci vuole poco. Adam, che dici? Sì, io direi di sì, onestamente. Poi ovviamente Ranieri non è il campione in carica solo per calcisticamente, ma anche per il suo inglese, perché... Voi avete, come si chiama, l'Accademia del Crucco, dove arrivano le nuove parole. Del Crucco. Crucco è il tedesco. Sì, che lui poteva magari mettere la parola dilidong, che non esisteva in inglese prima, quando lui ha detto nella conferenza stampa, perché noi abbiamo ding dong, quindi dilidong, dilidong può entrare crucco, nel... Crucco is the Italian way for saying crowd. Crucco è esattamente come gli inglesi dicono Krauss per parlare dei tedeschi, insomma, in maniera non così un po' a metà fra il dispregiativo e il festeggiativo, direi, insomma, poi siamo grazie a Dio in un'epoca di pace, quindi insomma, Crucchi è quella roba lì. Io vi faccio sentire, per chiudere questa chiacchierata molto divertente, una cosa diversa suggerita proprio da Adam, e cioè Steve McLaren che parla in olandese con l'accento inglese perché è andato a allenare in Olanda. Eccolo qui. I sort of knew when I came here and Champions League, Liverpool or Arsenal, I thought maybe one of them we would draw. And, cosa ne pensi, Adam, di questo misto? Sì, questo è, McLaren ha fatto una scelta coraggiosa, perché lui è dal nord-est Inghilterra, che ha l'accento abbastanza forte, quindi non voleva imparare olandese, si vedeva, magari si scocciava un po'. Quindi ha fatto la scelta di parlare inglese con l'accento olandese. Qui sembra un po', non so, non entrare nello spirito del discorso, diciamo, perché andare al resto, secondo me, si deve almeno tentare di parlare la lingua, che io sono un buon esempio di uno che lo fa malissimo, ma almeno... No, come malissimo? È un leggerissimo accento inglese, per il resto parli un italiano. No, però Adam, per la notizia del giorno, mi pare, quindi confermi che ancora oggi con l'accento italiano si rimorchia in Inghilterra. Piace l'accento italiano alle donne inglesi? Sì, the Italian stallion will go on forever. Viva l'Italian stallion. Una cosa molto importante è gesticolare, Sì, gesticolare molto. Tutte sono molto colpite dal nostro gesticolare. Sì. E poi dicono che noi cantiamo, no? Just one cornetto, delicious ice cream. From Italy. La famosa pubblicità di qualche anni fa. Come on, Adam, go on. Just one cornetto. Vai. Give it to me. È il mio camionino qui che mi sta guardando come sono uscito, non so da dove. C'ha ragione. Adam, prima di salutarti, permettimi di fare il tuo lavoro. Chi vince la finale? L'Europeo. Chi vince la finale? Allora, ho visto le quote stamattina, c'è la Coppa, Francia è 2,40 e Portogallo è 2,90, quindi sono lì. Le quote dicono, è più o meno come il percentuale che per Luigi ha detto all'inizio del programma. Quindi, 70-30? No, ha detto 65-35. Quindi le quote dicono Francia, ma i romantici stanno puntando su Portogallo. Io sono poco romantico e sono uno dei 7-8 in Italia che ti farà Francia. Grazie Adam, è sempre un piacere. Adam Greipz, stella dei quotisti SNAI e personaggio meraviglioso. Allora ci fermiamo un attimo, poi torniamo con un sacco di ascoltatori. Traffico. Wake up everybody. Thank you. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Tutti convocati. Giovanni, potrai notare come ci sono molti permalosi mazzariani, Sì. Prendete per il culo Mazzarri, intervistate uno dopo 20 anni parla italiano come stagione. A parte che Adam Greipz parla italiano perfettamente, ma non prendiamo per il culo nessuno. Parla italiano perfettamente con un fortissimo accento inglese, ma parla italiano perfettamente, non prendiamo per il culo nessuno, questo sia chiaro. No, ma tra l'altro Mazzarri partiva da zero, secondo me ha anche fatto un buon lavoro, in un anno. Sì, certo, certamente, no? Ci mancherebbe. Prendere per il culo, secondo me, è un'altra cosa. C'è chi scrive che mi sono collegato solo adesso, ma i francesi che copiano gli islandesi. Ieri sera i francesi hanno fatto la sorta di haka copiati in effetti dagli islandesi. C'è chi lo trova triste e trova che sia un motivo in più per tifare Portogallo. Beh, anche quello è diventato un fenomeno virale, quindi nessuno stupore se i francesi abbiano. È un po' il simbolo di questo, è uno dei simboli di questo europeo. Cesare, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi convocato. Volevo tornare sul discorso Pogba e Bonucci. Avete detto 120 per Pogba e 60 per Bonucci? Sì, che facciamo? Andiamo, sì. Li prendo io in macchina, li porto io entrambi a Manchester, che non si facciano male per strada. E sono juventino doc. Cioè non ti fermi neanche l'autogrill per essere sicuro. Che non qualcosa di brutto, che non mi venga sulla colita qualcosa. Li porto e li appoggio piano piano al campo del calcio, proprio piano piano. Tanto, però Cesare, poi è dura. La, città, la destinazione è una, Manchester. Da, sì, sì, sì. Dal City allo United, è chiaro che è dura sostituirli, però insomma io penso che ci siano delle offerte irrinunciabili. Guarda, Roberto, c'è un amico che ha scritto: ma se il Barcellona dice no ai 190 per Neymar, perché la Juve non può dire no ai 120 per Pogba? Ed è Danilo. Beh, intanto per questioni dimensionali, il Barcellona come club è il doppio di quello che è oggi la Juventus. Quindi il Barcellona si può permettere di dire di no. La Juve un po' sì, ma ci deve riflettere. E ogni anno noi ci troviamo d'estate a fare questo ragionamento. Poi dopo 60 per Bonucci, te li offriranno mai un'altra volta, sì o no? E 120 per Pogba, cioè tu fai anche questo ragionamento che è una scommessa alla fine. Beh, c'è anche il Chelsea, ad esempio, che ha venduto l'amico di Pierluigi Pardo con i riccioloni per 65, che erano una cifra spropositata, no? Luiz. Pronto? Sì, Pier. Eccolo, perché li preascolto da un po', poi nel frattempo stavo qui giocando con gli amici del controllo passaporti di Bertagagli di Palermo. Sì, l'amico Riccioloni, voglio dire, insomma, è uno dei casi più incredibili del calcio mercato degli ultimi anni, nel senso che la cifra era assurda. Appunto. Ok, il prezzo non è giusto. Ecco. Non è giusto, infatti il Chelsea ha detto, oh, prego, fate pure, senza tentennamenti, come è giusto che sia. Roberto. Sì, buongiorno. Dica. Sempre complimenti, grazie per la compagnia che fate qui in macchina tutto il giorno. A lei. A proposito di macchine, c'è uno che ha scritto un WhatsApp sull'ascoltatore di prima che ha detto: li prendo io in macchina e li porto direttamente a destinazione senza neanche fermarmi all'autogrill. E c'è chi risponde via WhatsApp e io ti buco le gomme. Attenzione, ecco, attenzione. Io mi faccio trovare per strada, gli offro anche il caffè mentre li portano. No, più che altro, sì, allora Pogba 120 milioni, glielo diamo anche di corsa e tutto, anche perché le alternative si trovano, soprattutto magari a centrocampo, visto come sono messi Marchisio e Chiesa. Ma Bonucci glielo diamo pure, anche a 55, ma le alternative a centrocampo in attacco le troviamo. E in difesa anche perché non allora non glielo dai, Roberto, no? Allora non glielo dai. Esatto, no, cioè, voglio dire, diamoglielo, ma prima assicuriamoci di avere delle alternative, non dico di pari valore, o bene, almeno due. Ma mi sembra perché... che Benazia possa essere un'idea, no? Come diceva prima Pardo. Non so che quali altre alternative ci possono essere nel ruolo. È chiaro che i difensori con i piedi, i difensori che possono fare anche i playmaker come Bonucci, come è di gran moda in questo europeo, non sono tantissimi. Però, insomma, io non riesco a dar torto a Pierluigi quando dice che 60... E quanto Benazia ha? 20-25? Sì, ma è una scelta... Cioè, voglio dire, adesso non è che nessuno qui sta facendo un complotto per cacciare Bonucci dall'Italia. No, ma ci mancherebbe altro. Ragionando sopra. Però io dico che ci sono delle quotazioni di quel tipo, è normale che uno ci possa almeno pensare, ecco. Sì. Poi magari decide invece che si sente più sicuro e che vale la pena. Però ecco, tutti e due no, ma che uno dei due possa partire mi sembra, nella logica delle cose, mi sembra che il mercato della Juve fino a questo momento è stato un mercato molto positivo, giocato d'anticipo, che potrebbe anche far pensare che poi alla fine, se dovesse presentarsi veramente un'occasione così importante, si può monetizzare. Si può ragionarci monetizzare sopra. Questo nostro grande amore cantano i cani, no? Niccolò Contessa. Sì. No, però, scena indie romana. Io volevo anche girare questo a Giovanni Capuano, che dice forse è meglio di no. Come fai a fronteggiare l'ingaggio che gli inglesi offrirebbero a Pogba, praticamente triplicato rispetto a quello che prende la Juventus, e Bonucci più del doppio? Guarda, secondo me lo fronteggi così, che poi è la strategia che la Juve sta facendo. Cioè, con Pogba tu fai un cammino insieme a chi lo gestisce, che poi tutti noi sappiamo che Pogba non finirà la carriera alla Juve, che prima o poi è destinato a muoversi. C'è un percorso, tu vai di rinnovo in rinnovo aumentando finché non arrivi al tuo tetto, e poi arriva il momento in cui l'affare lo fai tu e lo fa lui. Sì. Potrebbe anche essere l'anno prossimo. E per Bonucci è più difficile. Bonucci ha poco meno di 30 anni. è all'ultima occasione della vita per fare quel salto lì, andare in Premier con quello stipendio lì. Io l'altra sera parlavo con un ex giocatore della Juve, non farmi fare il nome, e lui mi diceva: io fossi in Bonucci non ci penserei nemmeno un secondo, ma non solo per i soldi, perché oggi i calciatori, se vogliono pensare di essere arrivati al top, vogliono andare a giocare in Inghilterra, dove c'è Mourinho, Guardiola, sì, ho capito, Conte, Giovanni, non è che, dove, non è dove che c'è giochi... il campionato più bello, dove anche ci sono gli stipendi che sono quelli lì. Sì, dove, non, dove fanno fatica a vincere la Champions League, dove i trionfi internazionali se li ricorda nessuno, nemmeno noi, perché non eravamo nati. Beh, insomma, sono pro e contro, perché non è che Bonucci giochi in una squadra di secondo piano. Vanni, buongiorno. No, non c'è Vanni, è caduto. 800240024. Comunque l'argomento rimane aperto e di strettissima attualità, e credo che sarà l'argomento dell'estate. Penso di non sbagliarmi quando dico, lo ripeto da giorni, che sarà forse il mercato più con maggior numero di denaro mai visto, con la maggior quantità di denaro mai vista nella storia del calcio, proprio per la ragione secondo la quale molti grandi club hanno cambiato allenatori e dunque vogliono i regali. Pierluigi, prima di salutarti, cosa ne pensi del Sola Bielsa? Argomento che tra poco tratteremo e che abbiamo così lasciato accennato soltanto. L'argomento è chiaramente, appunto, adesso lo tratterete, io proverò a ascoltarvi, poi a questo punto dovrò partire, ma va approfondito, nel senso che e nelle prossime ore potrebbe anche regalare colpi di scena e chiarimenti. Ad oggi mi sembra, insomma, veramente una sola, ecco. Nel senso che c'è un allenatore che ha fatto, che ha firmato e poi ci ha riversato. Non sarà mai vista. Cioè, poi per alcuni tifosi della Lazio, e nemmeno troppo pochi, lo Tito è il male assoluto, quindi qualsiasi cosa fa nella vita sbaglia sempre. E sicuramente oggi l'argomento che questi tifosi hanno è: ma certe cose succedono solo alla Lazio. È un argomento sicuramente. Ma in questo caso lo Tito che ci può fare? Scusa. Ecco, però in questo caso mi sembra francamente che lo Tito sia la parte lesa, credo che abbia anche intenzione di adire le vie legali, proprio perché ha avuto un danno. Ha fatto una scelta, che è stata una scelta molto forte, molto precisa, anche economicamente importante, nei confronti di un allenatore di grande carisma. Se poi questo allenatore cambia idea dall'altra parte del mondo per qualche motivo, magari perché gli è arrivata qualche offerta ancora più stimolante, francamente dare la colpa allo Tito anche di questo mi sembra eccessivo. Detto questo, io posso dire una cosa assolutamente fuori dal vento dominante. Bielsa era un grande colpo, secondo me, soprattutto dal punto di vista dell'interesse, cioè in un campionato come il nostro, che spesso perde dei grandi nomi, sarebbe stato bellissimo dal punto di vista proprio dell'interesse generale, certo, complessivo, prendere Bielsa. A me Simone Inzaghi l'anno scorso è piaciuto in anche quello campo di stagione, anche a me ha fatto molto bene. Io mi sarei preso Prandelli, dobbiamo fermarci. Anch'io mi sarei preso Prandelli. Dobbiamo fermarci. Pierluigi, ci sentiamo domenica. A domenica. Doppio appuntamento, Doppio appuntamento. Sentiamo dopo il GR invece noi, torniamo. E l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari. La partita si allunga, in molti l'avevano previsto. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. A Wimbledon, Raonic avanti di un set su Federer 1-0, equilibrio, 4 pari nella seconda partita. Giovanni Capuano qui con me, Marco e Antonio sono in linea, 800-24-0024, vai Marco. Sì, ciao, salve, ciao a tutti e grazie per la convocazione. Mi volevo riallacciare al discorso di prima di Pogba e Bonucci sulla eventuale cessione. E sono d'accordo con, non mi ricordo chi ha detto, che sì, li vendi a 120 o 80 milioni, poi chi compri? Quindi io personalmente non li venderei al Manchester, perché ti dà solo soldi, ma proverei a venderlo a qualche altra società che ti può dare qualche giocatore in cambio. Avevo letto tempo fa di un'offerta del Real Madrid che poteva dare qualche giocatore. Ora, io non conosco Isco, ho il pallino di Luka Modric, però preferirei, ecco, piuttosto dare Pogba per Modric, Morata e soldi, o insomma una soluzione similare, piuttosto che averci dei soldi a disposizione e poi vai dalla società e non ti vendono nessuno. Sì, sì, sì, questo può essere un discorso, però i 120 li offre lo United. Sì, li offre City, li offre lo United, sì. Sì, intanto oggi c'è anche questa notizia dalla Spagna, per cui gli agenti di Morata stanno parlando con Real Madrid per capire che cosa succederà, perché c'è questa ipotesi di trasferimento a cifre folli, 75 milioni di euro al Chelsea di Conte, però in realtà poi anche lì di scritto non si è ancora visto niente, il Real non ha le idee chiarissime. Io credo che la Juve quell'ipotesi lì che ha fatto il nostro amico da casa un pochino ce l'avesse in testa, cioè arrivare un giorno, cioè, a sedersi al tavolo con Real Madrid per parlare di tante cose, di cambiare anche, magari anche di Pogba, però insomma. Però ad oggi questa cosa non è successa. No, e comunque oggi Modric non l'avrebbero mai fatto partire. Tu dici? Tu dici? Ma non lo so, dipende. Anche qui secondo me dipende dagli scudi, come scrive un nostro amico. Ma se la Juve ha venduto Padoin, 5 scudi può anche vendere Pogba e Bonucci. Antonio, buongiorno. Sì, ciao Genta, ciao Capuano. Innanzitutto volevo dirvi bravi a tutti e due per il vostro modo di fare il gioco. Grazie. Bravi. No, io volevo dire, io sono un abbonato allo Juventus Stadium, sono uno che ha sempre visto in Bonucci un giocatore fondamentale, perché tutto parte da lì. Tutti parlano di Dybala, Mandzukic, eccetera, ma ricordiamoci il salvataggio fatto a un metro dalla porta sul lancio di Caleon, e la palla andava a Higuain che la metteva in porta. Quindi Bonucci capace di salvataggi che valgono più di un gol. Su Pogba secondo me un pensiero ci si può fare, perché comunque lui ogni tanto mi fa incazzare, perché la voglia ogni tanto gli piace, possiamo troppo giocare, eccetera. Possiamo anche dire che è un giocatore che è un ragazzino, che quindi i margini di miglioramento sono enormi, bla bla bla, cose che abbiamo già detto e sentito un sacco di volte. Non lo so, io sono forse più dell'idea di Giovanni, cioè per Bonucci ha 30 anni, difficile trattenerlo da questa tentazione, e i denari offerti sono tanti. Poi nessuno discute l'importanza di Bonucci in fase difensiva, ma soprattutto in fase di costruzione del gioco, ed è quello che oggi si cerca in un difensore. Ho questo messaggio di Roberto che scrive un sms dalla provincia di Belluno. Ragazzi, ricordatevi queste parole: 8 luglio 2016, Bielsa andrà all'Inter. Allora vi faccio sentire, andiamo sul caso Bielsa che mi intriga molto, sempre con microfoni, telefoni aperti, eccetera eccetera. Cosa ci aveva detto, lo ricordiamo, l'altro ripetiamolo, facciamo riascoltare l'altro giorno il presidente della Lazio Lottito in questa mezza imboscata telefonica che gli abbiamo fatto. È ufficiale, Bielsa tutto a posto. Scusa, non è successo invece? E iniziamo sempre la storia di Bielsa. Rimanga tra me e te. No, guarda, è in diretta, la mia correttezza mi porta a dire. No, io tanto lo dico, perché te lo dico, ho fatto un comunicato, c'è un comunicato. Ok, vabbè. No, sai, io sono corretto, questa è Radio 24, quindi è un conto, una chiamata. C'è un comunicato ufficiale. Però lei è felice, insomma, è un passo importante. Sì, dico è un grande colpo, questo lo possiamo. Ma il comunicato dice che è stato già depositato il contratto, non certo oggi. E che il costo, c'è il comunicato ufficiale, e che come da comunicato suo verrà sabato. Ok. Beh, ma è un grande allenatore, presidente. Stiamo dicendo che è un grande colpo. No, vediamo che succede. Va bene. Hai visto Michele Plastino che è successo? Intanto grazie, Michele. Grazie a voi, mi mancavate, era un po' che non vi sentivo. Che è successo? Anche che tu è ci successo? Manca, ci manchi sempre. Che è successo? Vediamo che succede. Allora, chi osava lo Tito l'altro giorno? Intanto grazie a voi, perché se c'avevo qualche dubbio, grazie a voi, a te, a Luigi, avevo capito che cosa stava succedendo. Non ci vuole la grande maestria da giocatore di poker per capire che a quel punto era un escamotage, cioè voglio dire un appiglio legale, ma che non arrivava. Poi vedremo, conoscendolo Tito, cioè conoscendolo, conosce meglio Luigi, anzi Luigi credo che insomma abbia a questo punto un rapporto, io lo conosco un po' di meno, però a livello diciamo pubblico lui avrebbe chiaramente decantato, no? questo avvenuto acquisto di allenatore, questa presa di allenatore. In realtà non fece questo e lì abbiamo cominciato a capire. L'idea che mi sono fatta è una non idea, perché è difficile capire bene quello che accade nel mondo Lotito più che nel mondo Lazio, perché lui è in una dimensione diversa di ragionamenti che a volte hanno portato anche, credo, a dei successi commerciali, però è un'altra dimensione. Noi non riusciamo, credo, a capire, perché il primo ragionamento che viene da fare è quello che si dice in questi giorni: Bielsa aveva chiesto dei giocatori e ha visto che non arrivavano, eccetera. Io pongo un altro interrogativo: ma sì, perché io non credo che un contratto possa essere dipendente dalla campagna acquisti. E infatti, questo non penso nemmeno io. Ma sì, però Michele, clamoroso. Allora c'ho un'altra idea. No, la mia idea velocissima è questa: che invece Bielsa abbia saputo che intanto si facevano una serie di nomi che tutti accreditavano al suo volere, cioè nel senso che, per esempio, ma perché Bielsa doveva volere Pato, di cui avevamo perso le tracce? E che questo fatto, il fatto magari di essere usato come scudo, come scusa, lo possa aver definitivamente indispettito, perché poi in realtà se ci fosse l'Inter la cosa diventa complicata, se ha firmato già il contratto, mentre invece se c'è una squadra straniera credo che per regolamento la cosa sarebbe diversa. Però voglio dire, cause no, perché un allenatore si può dimettere. La Lazio batte un record, le dimissioni di un allenatore dopo 30 secondi che neanche ha messo piede nella città. Sì, dopo due giorni dall'annuncio che è stato depositato il contratto. Però posso dire che c'è una cosa un po' surreale in tutta questa vicenda. Cioè, noi oggi facciamo il processo ai pensieri di Lotito, quando in realtà il dato di fatto è che c'è uno che ha firmato un contratto e non si è presentato per una settimana, oggi ci fa sapere, o meglio fa sapere alla Lazio, perché noi insomma, non abbiamo una lettera, una spiegazione di Bielsa, per cui ci fidiamo di quello che ci viene detto, servirebbe anche. Che di fatto non tiene fede a quello che aveva preso come impegno. Cioè, mi sembra che oggi la situazione sia questa e sia abbastanza delineata. Poi capisco che a Roma parlare di Lotito sia impopolare noi abbiamo detto in queste settimane che magari è anche stata azzardata la scelta di Bielsa, che è un personaggio un po' così, però oggi i fatti sono questi. Cioè, infatti abbiamo un contratto depositato, firmato non dal fratello di Bielsa ma da lui stesso. Però perdonatemi, lo dico perché lo so che non era diretto a me, ma figurati, io sono stato una vita, anche il giorno, io ho contestato un modo di fare di questo presidente il giorno dopo che aveva vinto la Coppa Italia contro la Roma, quindi figurati se mi interessa essere popolare o meno. Adesso la situazione si è rivoltata, ma per una vita chi ha contestato Lotito a livello, parlo proprio anche giornalistico, a parte da tifoso, era nell'assoluta minoranza, quindi la definiva così anche lui. No, non era quello il concetto, io dico che però non è così chiaro. Ti faccio un esempio. Vi ricordate il famoso gesto bruttissimo di Zidane con Materazzi, no? Sì. Cioè, quello era il gesto che ci ha fatto segno, no? Però era chiaro che anche in quel momento uno doveva dire: ma se questo è arrivato a questo, che è da galera, ma che gli può aver detto quell'altro? Cioè, quello che, l'interrogativo che mi pongo io, ma uno che, se le cose stanno così, com'è possibile che uno come Bielsa adesso, prima di arrivare, dice che non vuol venire? Cioè, io mi interrogerei su questo. Poi magari scopriamo che è la persona più disonesta del mondo, che ha firmato 5 contratti, magari quello sì, però io adesso mi fermo all'interrogativo di chiedermi: ma com'è possibile che accade questo? E senza dare giudizi, noi di Bielsa abbiamo due precedenti: l'estate che disse no all'Inter perché aveva dato la sua parola all'Athletic Bilbao che sarebbe rimasto, e l'anno scorso dove col Marsiglia, scontento della campagna acquisti, cominciò comunque la stagione e poi si dimise all'improvviso ad inizio agosto. Cioè, questo è Bielsa per i precedenti che conosciamo di situazioni un po' particolari legate alla panchina. È la prima volta che si comporta così, quindi anche questo può essere qualcosa di cui tenere conto. Ad esempio, io con grande curiosità questa mattina ho cercato sui siti argentini per capire che tipo di rilevanza potesse avere la notizia e non ho trovato nulla. Io idem, siamo in due, anch'io, perché mi piacerebbe sapere da quella parte che cosa si può dire, paventare, però è chiaro che quella parte della Lazio non interessa molto. Cioè, anche noi in questo momento che cosa sta succedendo a Rosario ci non interessa lo sappiamo. Poco. Sì, no, ma... quindi... Comunque questo interrogativo porta a molti altri interrogativi. Che succede adesso? Anche perché, allora, Simone Inzaghi, che dicevamo prima, tutto sommato nella sua nell'ultima parte della stagione, dopo essere subentrato al posto di Pioli, malissimo non ha fatto. Adesso no, è stato, mi pare, richiamato, c'è scritto nel comunicato, per questa prima fase di preparazione. Ma non è che si è detto è il nuovo allenatore della Lazio. Esatto, bravo, perfetto. Allora io sai che cosa penso? Io penso che qui ci sarà un effetto domino. Io credo, e se fossi il suo procuratore, questo gli consiglierei, come Simone Inzaghi si è affacciato anche bene, a parte che è un bravissimo ragazzo, ma è anche un buon allenatore, ha fatto bene la primavera, non ha fatto male nel finale con la Lazio, e è legato ovviamente allo Tito, tant'è vero che doveva essere, se non sbaglio, lunedì prossimo presentato a Salerno, sì, come allenatore della Salernitana. Sì. Adesso viene richiamato, spostato a fare il preparatore per alcuni giorni, si suppone, del ritiro. Io credo che Simone Inzaghi rifiuterà. Allora, guarda, te lo dico, per la sua immagine, a un certo punto, per quanto possa essere legato e l'affetto, non può essere, capito, una marionetta spostata qui e lì, perché poi se la Lazio prende un altro allenatore, lui da lì parte, e non credo che potrebbe andare a Salerno, perché poi lì ci sarà la reazione, e come credo già ci sia giusta, dei salernitani, sì, dei tifosi della Salernitana, perché dicono, noi già siamo satellite della Lazio, ma adesso siamo satellite dei malumori dell'allenatore Bielsa, che cioè dai, è una cosa che a mio avviso non ha senso nel rispetto dei tifosi, no, in questo caso. Si parla di Bollini a Salerno, però, si parla già di un altro allenatore a Salerno. Sono sempre gli stessi. Sì, è sempre lo stesso giro. Sì. Ma secondo te, Michele, allo Tito gli torna in mente di fare una chiamata a Prandelli? Qui però misurerei Prandelli, cioè può darsi che allo Tito, ripeto, allo Tito è in una dimensione a parte, tutto può essere, però che fa Prandelli dopo che era stato seduto e abbandonato, e lo dichiara, dice a me mi aveva stretto la mano eccetera, poi si fa risedurre un'altra volta a livello di dignità professionale e umana? Non credo, anche se non è che poi noi beviamo la storia che no, Bielsa era un falso obiettivo, in realtà l'obiettivo di sempre è sempre stato Prandelli, lì non credo che, cioè, non ci arriviamo. Siamo disponibili a tutto, possiamo, no, no, possiamo discutere su tutto, ma il surreale mi sembra, anzi mi sembra già che sia stato superato con questa vicenda. È molto ionesco. Beh, come storia non certo per i razziali, ma come storia è un meraviglioso soggetto cinematografico. Da un'altra parte, se fosse vivo Sordi, è uno spaccato di una certa Italia. A Sordi non sarebbe sfuggito una serie personaggi. No. Grazie Michele, è sempre grazie un piacere. A voi, ragazzi. Ti abbraccio, ciao, Michele Plastino. E chi scrive con grande sicurezza: Prandelli alla Lazio, Bielsa all'Inter. Chi vivrà, vedrà. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Io sono un laziale depresso attualmente, sì, perché le vicende chiaramente sono negative per la Lazio. Tra l'altro non sono mai stato un tifoso contro lo Tito, perché gli ho sempre riconosciuto dei meriti evidenti da un punto di vista gestionale. Però negli ultimi anni, secondo me, vuole fare la parte del presidente della grandissima società. E mi spiego meglio: se tu hai la forza per prendere un allenatore a 3 milioni di euro netti, il giorno dopo a colazione gli porti i primi due giocatori che lui ti ha chiesto, credo. Così come l'anno scorso, se tu hai la forza di trattenere un giocatore per il quale ti hanno offerto 50 milioni di euro, Felipe Anderson, il giorno dopo compri un attaccante di livello assoluto per affrontare il preliminare di Champions. Non può fare la parte del grandissimo presidente della grandissima squadra se poi non ne ha le possibilità. Si comportasse come ha fatto nei primi anni, parlasse chiaro, noi sappiamo quale fossero i desiderata di Bielsa? Ma di preciso, difficile, cioè, non lo so dire, è questa la ragione del contendere, Massimo. Però, sono 15 giorni che si parla sempre degli stessi nomi e si parla di metodi di pagamento, poi tra l'altro giocatori di seconda fascia, perché non si è mai parlato di grandissimi giocatori. Allora, se tu hai problemi a prendere un tale Rodrigo Caio che costa 10 milioni di euro, centrale brasiliano, e stai a vedere in quanti anni devi pagarlo, se prenderlo, come dilazionare, eccetera, allora probabilmente nascono dei problemi. Poi che Bielsa è il loco non per niente, magari. Sì. Però ecco. No, però non è, diciamo, che Bielsa abbia allenato Bielsa, in contesti. Stavo dando un'occhiata. Bielsa, l'ultima cosa che ha vinto è l'oro olimpico con l'Argentina nel 2004. Poi sì, ha tre tornei di apertura, di clausura, ma stiamo ancora negli anni 90. E poi sinceramente ha fatto, dopo le esperienze con le nazionali, ha fatto l'Athletic Bilbao, ne abbiamo parlato, il Marsiglia, ma non è che poi sia andata benissimo, e aveva la Lazio. Cioè, non è che stiamo parlando di Guardiola o di Ancelotti, è un ottimo allenatore, ma da un certo punto di vista era anche una scommessa quella della Lazio, eh? Chiaro, no, e poi un allenatore che non è abituato ad andare dal club e a chiedere la luna, perché ha allenato in contesti Athletic Bilbao e Marsiglia, che non sono esattamente delle superpotenze, quindi non so se questo possa essere stato il motivo di questa commedia. Stiamo guardando Federer sul 6-6 nel secondo set, dopo che ha perso il primo con Raonic 1-0. Saluto e ringrazio Vincenzo Martucci. Ciao Vincenzo. Buongiorno a voi. Non nascondiamo il nostro tifo in questo match, no? No, no, no. Io non posso, io anzi devo essere completamente equanime, però il tennis è uguale a Federer e quindi io faccio il tifo per il tennis e quindi per la proprietà transitiva. Il tennis non è uguale per tutti. Senti, comunque ha avuto 4 set point per andare un set pari, purtroppo non le ha concretizzate, soprattutto una ha seccato un rovescio, e sta giocando abbastanza bene, devo dirti, contro un giocatore molto migliorato, perché Raonic una volta era soltanto gran servizio e qualche dritto potente, adesso lavora molto il servizio, va a rete e insomma ci ha aggiunto un po' di varietà. Certo, negli spostamenti ancora il suo limite, ma si vede che il grande lavoro che hanno fatto Piatti, Moya e negli ultimi tempi anche McEnroe stanno dando risultati. Non dimentico il tuo pronostico dell'altro giorno, è legato al nome di Murray, siamo vicini. No, io dall'inizio del torneo che dico che, ma ancora prima, che dopo averlo visto a Queens, devo dire che a Queens me lo sono visto per bene, anche proprio contro Raonic in finale, e l'ho visto molto molto sicuro, un giocatore che ha tante armi, che ha riscoperto la palla corta con l'età, che serve bene, risponde bene, si muove benissimo, ha molta forza nelle gambe, ha ritrovato l'handle. Per me era il favorito già prima che Djokovic venisse eliminato. Djokovic, che io all'inizio dell'anno, facendomi spernacchiare da tutti, dico che lo vedo male. L'ho visto male agli Open d'Australia contro Simon, quando ha fatto 100 errori gratuiti perché l'avevano mai visto fare. L'ho visto male a Roland Garros contro Bautista Agut, che aveva praticamente perso. Eppure è sempre riuscito a salvarsi e a portare avanti, a vincere altri due slam, quindi insomma non è che stiamo parlando di un comportamento negativo, però ecco, io lo vedevo un po' in difficoltà, lo vedevo sempre più nervoso, sempre più stanco fisicamente. Intanto, mentre siamo sul 2-2 nel tie break 1-0 Raonic, lo ricordo, non si andrà a scrivere un'altra bella storia, no? Un'altra finale in famiglia tra Serena e Venus, perché a Venere il miracolo di fermare il tempo non è riuscito alla fine. Questa Serena ci saremmo visto volentieri, no? Cioè, dopo tante farse fra le due sorelle, questa sarebbe stata una finale vera, anche perché questa volta sarebbe stata Serena a dover forse aver pietà della sorellona che va avanti con la sindrome di Sjögren, che chissà come è ancora in campo, eccetera. Ma se Venus proprio non ce l'ha fatta ieri, fisicamente non era in grado di competere contro un atleta come Kerber. Certo, e sorprende anche che sia arrivata fino a lì. Sì, ecco, questo però io l'ho scritto giorni fa, su collaboro per Super Tennis, la Federazione Italiana Tennis ha un sito e mi dà questa vetrina. Io ho scritto che queste due ragazze hanno rovinato due generazioni di tenniste, perché le 23 anni, dalle 20, dai 23 ai 27 anni sono sparite tutte le giocatrici. Sì. Se vediamo un attimo che cosa c'è dietro, e poi mi chiedevo anche, ma queste due ragazze sono sensazionali, sono formidabili, sono fisicamente straordinarie, diciamo tutti gli aggettivi che ci vengono in mente, ma le altre? Cosa hanno costruito le Halep, le Radvanska? Guardate che Halep e Radvanska sono due ottime giocatrici. Azarenka si è rotta, e le altre dove sono? Meteore, Meteoro. Mladenovic, Garziano, durante lo spazio di un mattino, ce ne sono tantissime. Ce ne sono tante che sono lì in un limbo e non riescono a fare un salto di qualità perché ci vuole tanta dedizione. Guarda Federer, tutti guardiamo Federer, il grande campione. Sì, ma quanto lavoro c'è dietro Federer? Guarda che Federer si allena da più di 10 anni con Paganini, che è uno dei preparatori a 13 più duri che ci siano sul circuito. C'è gente che scappa davanti a Paganini. Sì, sì, sì. Ma per durare nel tempo non c'è un'altra strada, Vincenzo. Ti ringrazio. Grazie mille, Vincenzo Martucci. Ciao. 3-3 nel tie break. Ha fatto 4-3 e adesso va a servire. Ah, dai. Giovanni, ci vediamo domenica. Allora, domenica dopo piano appuntamento. Partita. Allora, piano partita. Dalle 18 alle 19 tutti convocati il weekend normale. 18-19. E avremo basket, Formula 1, la preview da Parigi in diretta della finale dell'Europeo. E poi dalle 21 in poi lo speciale su Francia-Portogallo, e insomma vi invitiamo. Quindi sconto di un'ora per il pomeridiano, perché dobbiamo Ma regalo ve lo facciamo la sera, dalle 21. Grazie Giovanni Capuano, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, e c'è anche Alvise Falzoni in redazione. Allora a domenica, ciao a tutti! Che spettacolo, da brividi!